Sezione 9 di Il Decameron. Parte prima, giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Marzia Marianera. Quarta novella. Un monaco, caduto in peccato degno di gravissima punizione, onestamente rimproverando al suo abate quella medesima colpa, si libera della pena. Già si tacea Filomena dalla sua novella espedita, quando Dioneo, che appresso di lei sedeva, senza aspettare dalla reina altro comandamento, conoscendo già per l'ordine cominciato che a lui toccava il dover dire, in cotal guisa cominciò a parlare. Amorose donne, se io ho bene l'intenzione di tutte compresa, noi siamo qui per dovere a noi medesimi novellando piacere. E perciò, solamente che contro questo non si faccia, estimo a ciascuno dovere essere licito. E così ne disse la nostra reina poco avanti, che fosse quella novella dire che più crede che possa dilettare. Perché, avendo udito per li buoni consigli di Giannotto di Civigny Abram, aver l'anima salvata, e Melchisedec, per lo suo senno, avere le sue ricchezze dagli agguati del Saladino difese, senza riprensione attender da voi, intendo di raccontar brievemente con che cautela un monaco il suo corpo di gravissima pena liberasse. Fu in Lunigiana, paese non molto da questo lontano, un monistero già di santità e di monaci più copioso che oggi non è, nel quale, tra gli altri, era un monaco giovane, il vigore del quale né la freschezza, né i digiuni, né le vigilie potevano macerare, il quale per ventura un giorno, in sul mezzodì, quando gli altri monaci tutti dormivano, andandosi tutto solo da torno alla sua chiesa, la quale in luogo assai solitario era, gli venne veduta una giovanetta assai bella, forse figliuola d'alcun dei lavoratori della contrada, la quale andava per li campi certe erbe cogliendo. Né prima veduta l'ebbe, che egli fieramente assalito fu dalla concupiscenza carnale. Perché, fattolesi più presso, con lei entrò in parole e tanto andò d'una in altra, che egli si fu accordato con lei e seco nella sua cella ne la menò, che niuna persona se n'accorse. E mentre che egli, da troppa volontà trasportato, men cautamente con lei scherzava, avvenne che l'abate, da dormir levatosi e pianamente passando davanti alla cella di costui, sentì lo schiamazzio che costoro insieme faceano, e per conoscere meglio le voci s'accostò chetamente all'uscio della cella ad ascoltare, e manifestamente conobbe che dentro a quella era femmina, e tutto fu tentato di farsi aprire. Poi pensò di volere tenere in ciò altra maniera, e tornatosi alla sua camera, aspettò che il monaco fuori uscisse. Il monaco, ancora da grandissimo suo piacere e diletto fosse con questa giovane occupato, pur non di meno tuttavia sospettava, e parendogli aver sentito alcuno stropiccio di piedi per lo dormitorio, ad un piccol pertugio pose l'occhio e vide apertissimamente l'abate stare ad ascoltarlo e molto ben comprese l'abate aver potuto conoscere quella giovane esser nella sua cella. Di che egli, sapendo che di questo gran pena gli dovea seguire, oltremodo fu dolente. Ma pur, senza del suo cruccio niente mostrare alla giovane, prestamente seco molte cose rivolse, cercando se a lui alcuna salutifera trovarne potesse. Ed occorsagli una nuova malizia, la quale, al fine immaginato da lui, direttamente pervenne, e facendo sembianti che esser gli paresse stato assai con quella giovane, le disse: «Io voglio andare a trovar modo come tu esca di qua entro senza esser veduta, e perciò statti pianamente infino alla mia tornata». Ed uscito fuori e serrata la cella con la chiave, direttamente se n'andò alla camera dell'abate, e presentatagli quella, secondo che ciascun monaco facea quando fuori andava, con un buon volto disse: «Messere, io non potei stamane farne venire tutte le legne le quali io aveva fatte fare, e perciò con vostra licenza io voglio andare al bosco e farnele venire». L'abate, per potersi più pienamente informare del fallo commesso da costui, avvisando che questi, accorto non se ne fosse che egli fosse stato da lui veduto, fu lieto di tale accidente e volentier prese la chiave e similmente gli diè licenza. E come il vide andato via, cominciò a pensar qual far volesse piuttosto, o in presenza di tutti i monaci aprir la cella di costui e far loro vedere il suo difetto, a ciò che poi non avesse cagione di mormorare contro di lui quando il monaco punisse, o di voler prima da lei sentire come andata fosse la bisogna. E pensando se costesso che questa potrebbe essere tal femmina o figliuola di tale uomo, che egli non le vorrebbe aver fatta quella vergogna, d'averla a tutti i monaci fatta vedere, s'avvisò di voler prima veder chi fosse e poi prender partito. E chetamente andatosene alla cella, quella aprì ed entrò dentro e l'uscio richiuse. La giovane, veggendo venir l'abate, tutta smarrì e temendo di vergogna, cominciò a piangere. Messer l'abate, postole l'occhio addosso e veggendola bella e fresca, ancora che vecchio fosse, sentì subitamente non meno cocenti gli stimoli della carne che sentiti avesse il suo giovane monaco e tra se stesso cominciò a dire: «Deh, perché non prendo io del piacere quando io ne posso avere? Con ciò sia cosa che il dispiacere e la noia, sempre che io ne vorrò, siano apparecchiati. Costei è una bella giovane, ed è qui che niuna persona del mondo il sa. Se io la posso recare a fare i piaceri miei, io non so perché io non mi faccia. Chi il saprà? Egli non saprà persona mai. È peccato celato e mezzo perdonato. Questo caso non avverrà forse mai più. Io estimo che egli sia gran senno a pigliarsi del bene quando Domenedio ne manda altrui». E così dicendo, ed avendo del tutto mutato proposito da quello perché andato vera, fattosi più presto alla giovane, pianamente la cominciò a confortare ed a pregarla che non piagnesse, ed una parola in un'altra procedendo, ad aprirle il suo desidero pervenne. La giovane, che non era di ferro né di diamante, assai agevolmente si piegò a piaceri dell'abate, il quale, abbracciatola e baciatala più volte, in sul letticello del monaco salitosene, avendo forse riguardo al grave peso della sua dignità ed alla tenera età della giovane, temendo forse di non offenderla per troppa gravezza, non sopra il petto di lei salì, ma lei sopra il suo petto pose, e per lungo spazio con lei si trastullò. Il monaco, che fatto avea sembianti d'andare al bosco, essendo nel dormentoro occultato, come vide l'abate solo nella sua cella entrare, così tutto rassicurato estimò il suo avviso dovere avere effetto, e veggendo il serrar dentro, l'ebbe per certissimo, ed uscito di là dove era, chetamente n'andò ad un pertugio per lo quale ciò che l'abate fece o disse, ed udì e vide. Parendo all'abate essere assai con la giovinetta dimorato, serratale nella cella, alla sua camera se ne tornò, e dopo alquanto, sentendo il monaco e credendo lui esser tornato dal bosco, avvisò di riprenderlo forte e di farlo incarcerare, a ciò che esso solo possedesse la guadagnata preda. E fattolsi chiamare, gravissimamente e con malviso il riprese, e comandò che fosse in carcere messo. Il monaco prontissimamente rispose: «Messere, io non sono ancora tanto all'ordine di San Benedetto stato che io possa avere ogni particolarità di quello apparata, e voi ancora non m'avete mostrato che i monaci si debban far dalle femmine priemere come da digiuni e dalle vigilie. Ma ora che mostrato me l'avete, vi prometto, se questa mi perdonate, di me più in ciò non peccare, anzi farò sempre come io a voi ho veduto fare». L'abate, che accorto uomo era, prestamente conobbe costui non solamente aver più di lui saputo, ma veduto ciò che esso aveva fatto, perché, dalla sua colpa stessa rimorso, si vergognò di fare al monaco quello che egli, sì come lui, aveva meritato, e perdonatogli ed impostogli di ciò che veduto aveva silenzio, onestamente misero la giovinetta di fuori e poi più volte si dee credere la vi facesser tornare. Fine della sezione 9.